Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, i nostri stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 639 e parleremo dello stato di salute del pianeta Terra, di alimentazione vegetale, della sorte degli animali in Ucraina, di riformatori sociali. La ricetta della settimana, come al solito, sarà a cura del nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni. A Valentina Baronti abbiamo affidato la cura della colonna sonora. Nei giorni scorsi si è celebrata, diciamo così, la Giornata Mondiale della Terra, ma si è trattato anche stavolta di una ricorrenza piuttosto mesta e deprimente, che può avere un unico risvolto positivo, essere di stimolo a fronte di un ritratto del pianeta tanto fosco per un'azione collettiva volta al cambiamento. Un cambiamento radicale, quale sarebbe necessario per fermare la corsa all'autodistruzione. Il WWF ha colto l'occasione della Giornata della Terra per diffondere un rapporto che ricorda i tratti salienti del degrado ambientale in corso. L'estate 2021 è stata la più calda della storia, 1 milione di specie animali è a rischio di estinzione e 3,5 miliardi di persone vivono in contesti altamente vulnerabili per la crisi climatica. La Earth Day Organization, dal canto suo, con un documento intitolato «Investi nel nostro pianeta», ha diffuso 52 consigli di buoni comportamenti da tenere per evitare o almeno contenere il peggio. Fra questi, nemmeno a dirlo, c'è il consiglio di arrivare a una drastica riduzione dei consumi di carne, richiesta avanzata incessantemente dagli scienziati del clima, ma rimasta finora inascoltata. I governi dovrebbero invece avviare programmi di progressiva chiusura e conversione degli allevamenti, con contestuali campagne di informazione. Ma niente del genere è all'orizzonte. Nel mondo politico prevale, come ben sappiamo, l'inerzia. Spaventa, nel rapporto del WWF, l'analisi sulle specie animali e vegetali a rischio. Sono ben 1 milione e il tasso di estinzione è ormai 1000 volte superiore a quello naturale. Il pericolo principale a questo punto è la deforestazione, dovuta alla conversione del suolo a uso agricolo. Le foreste ospitano l'80% della biodiversità terrestre ed è quindi la biodiversità ormai in discussione. L'altra grave minaccia per il pianeta è il riscaldamento globale. L'estate del 2021 non solo è stata la più calda di sempre, ma ha anche fatto registrare le piogge più intense dal 1991. Infine, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, nella Giornata della Terra ha cercato di lanciare un messaggio, se non ottimistico, almeno non troppo scoraggiante. Abbiamo visto, ha scritto via Twitter, cosa è possibile fare quando agiamo insieme. Abbiamo ridotto il buco nell'ozono, abbiamo ampliato le protezioni per la fauna e gli ecosistemi. Ora dobbiamo unirci, urgentemente, per porre fine alla nostra guerra contro la natura e garantire una vita degna e prospera per tutti. Per noi, e speriamo anche per Guterres e per chi vorrà seguirne le indicazioni, questo tutti significa proprio tutti, tutti i terrestri, tutte le forme di vita, animali come noi e no. Passa il gigante graffia le stelle, morde i pianeti, passa il gigante che anche lassù butta i suoi rifiuti. Passa il gigante sporca di nero tutto quello che tocca, cresce il gigante nell'indifferenza di chi non apre bocca. E finché il sole cerca la luna, l'uva diventa matura, l'erba profuma tagliata, incrociamo le dita. Tu come stai? Quale mondo vuoi? Io voglio un posto migliore. Gira, gira tutto, gira, eppure il vento soffia ancora. Gira la vita, gira, gira l'amore, gira, eppure il vento soffia ancora. A proposito di alimentazione, una questione centrale nella vita di tutti noi, ma anche, come abbiamo visto, nelle strategie di cambiamento verso una mitigazione dei disastrosi effetti dei cambiamenti climatici, c'è un interessante rapporto riguardante la soia, un vegetale al centro di molte attenzioni e anche di molte polemiche e dicerie. La produzione di soia è fortemente aumentata negli ultimi decenni e molti la vorrebbero, idealmente, sul banco degli imputati. Ce ne parla la nostra Camilla Lattanzi. Il WWF ha pubblicato in questi giorni una ricerca intitolata Mapping the European Soy Supply Chain, quindi mappatura della catena di approvvigionamento della soia europea. I risultati evidenziano come il 90% della soia che viene consumata da noi cittadini europei non sia l'ingrediente di una ricetta, bensì un consumo indiretto dovuto alla sua presenza nei mangimi necessari per ottenere tutti i derivati delle proteine animali. Quindi si mangia soia quando si mangia carne, latte, formaggio, uova, eccetera. La soia, infatti, è un legume ricco di proteine e rappresenta quindi un mangime concentrato ideale. Potete quindi non avere mai assaggiato il tofu, potete non essere vegani né vegetariani, potete forse anche essere avversi alla soia e convinti che questo legume non sia presente nella vostra alimentazione, ma non è così. Chi mangia carne, pesce, uovo, formaggi in realtà sta inconsapevolmente consumando una grande quantità di soia. Secondo una nuova ricerca, ogni cittadino europeo, pensate, consuma in media 60,6 kg di soia l'anno, di cui oltre il 90% è nascosto nella carne, nel pesce e nei derivati animali. L'uso diretto della soia come ingrediente per la nostra alimentazione ammonta invece a soli 3,5 kg l'anno. I cittadini europei, dunque, senza saperlo, stanno contribuendo alla distruzione delle foreste in tutto il mondo. Nell'ambito della campagna Food for Future, il WWF vuole sensibilizzare i consumatori proprio sugli ingredienti nascosti che rendono le nostre scelte a tavola una delle maggiori cause di distruzione del pianeta. Il crescente consumo di carne, pesce, uova e latticini a livello mondiale ha determinato un incremento della produzione di soia quintuplicata negli ultimi 40 anni, distruggendo foreste, savane e altri habitat ricchi di biodiversità che vengono trasformati in terreni coltivabili. Quando si affrontano dei dibattiti con amici, parenti o anche estranei, viene a volte fuori il discorso che le persone vegane sono persone che consumano molta soia. Ebbene, non è così evidentemente, perché appunto i numeri parlano chiaro: dei 60,6 kg di soia l'anno che ciascun cittadino europeo mangia, oltre il 90% è quella che deriva da carne, pesce e derivati animali. Quindi la responsabilità dell'alimentazione carnista è molto molto superiore a quella dell'alimentazione vegetariana e vegana. Sì, mi piace il guanciale, Tonetto dice che però fa male, mi viene sempre dentro una gran pena, quando sto a dieta e tu mi invidi a cena. Di dimagrire non mi importa un cacchio, che vita è se poi non c'ho la l'abbacchio. Sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è soglia. No, non c'è mai una gioia, ma soglia, soglia, soglia. Per primo bacio, però voi mette due spaghetti al cacio. Io so che tu mi trovi fuori moda, mi piace tanto il sugo con la coda. Quando sto a dieta la mia vita stenta, mi manca spuntatura qua polenta. D'accordo, ma poi everybody, tutto il resto è soia. No, non c'è più una gioia. Gabriele Palloni, autore fra gli altri del libro Se vuoi essere sano cucina vegano, pubblicato da Newton Compton, ogni settimana è chiamato a scegliere una ricetta rigorosamente non violenta ispirata a una delle notizie della puntata. Stavolta il compito che gli abbiamo affidato non è difficile, almeno in apparenza, se non per l'imbarazzo della scelta. Il tema infatti è proprio la soia. Sentiamo che cosa Gabriele ha pensato per noi. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Con la ricetta di oggi diamo un po' di spolvero a questa bistrattata soia, che poi lei colpe non ne ha, se non quella di aver incontrato la gestione scellerata di noi umani. Ingredienti per 4 persone per l'insalata di baccelli e primo sale vegetale sono: per il primo sale veg 200 g di tofu, 120 ml di yogurt di soia naturale, 130 ml di latte di soia, mezzo cucchiaino di sale, il succo di mezzo limone, 65 g di amido di mais e un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Per l'insalata, 400 g di baccelli sgranati freschi, i baccelli in Toscana sono le fave, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, un cucchiaio di succo di limone, sale e pepe nero e qualche fogliolina di menta. Iniziate preparando il primo sale veg. Fate scottare il tofu per 10 minuti in acqua leggermente salata, quindi scolatelo e frullatelo assieme allo yogurt e al latte di soia e al succo di limone. Unite il sale e l'olio extravergine. Frullate bene il tutto e con questo liquido stemperate l'amido di mais. Mettete sul fuoco a fiamma bassa, mescolando con una frusta fino a quando l'amido inizierà ad addensare. Togliete dal fuoco e versate in un contenitore di vetro rettangolare spennellato di olio. Fate intiepidire, quindi riponete in frigorifero per almeno 2 ore. Nel frattempo emulsionate l'olio extravergine col succo di limone. Aggiungete il sale ed il pepe nero e mescolate fino a quando il sale sarà completamente sciolto. Con questa salsa condite i baccelli e, trascorso il tempo necessario, aggiungete anche il primo sale tagliato al quadrito. servite decorando con qualche fogliolina di menta fresca. Prendiamo dal quotidiano Il Messaggero una notizia drammatica arrivata dall'Ucraina. Due dipendenti dell'Eco Park, cioè dello zoo della città di Kharkiv, sono rimasti uccisi sotto i bombardamenti delle forze armate russe. I due dipendenti, secondo quanto riferisce il quotidiano, avevano scelto di restare nel parco per accudire i loro animali. Non si avevano notizie di queste due persone dall'inizio di marzo, quindi da poco dopo l'avvio dell'aggressione militare. Sono stati ritrovati ormai morti in una cantina del Feldman Eco Park, una struttura che prima della guerra ospitava, ma sarebbe meglio dire deteneva, circa 2000 animali appartenenti a oltre 200 diverse specie. Non ci sono notizie certe sulla sorte degli animali, se non che leoni, giaguari, volpi argentate, iene e alcuni altri animali erano stati evacuati durante i ripetuti bombardamenti. Altri animali però erano rimasti sul posto e perciò i due dipendenti dell'Eco Park avrebbero deciso di rimanere. Come in altre guerre, la sorte degli animali prigionieri degli zoo svolge un ruolo molto simbolico ed evocativo nel racconto dei combattimenti, dei bombardamenti. Sono animali indifesi, costretti a vivere in condizioni del tutto innaturali e impossibilitati a vivere fuori dalla loro prigione. Perciò i combattimenti e gli attacchi aerei sono per loro doppiamente devastanti. Non hanno alcun posto dove trovare riparo, né possono godere di alcuna libertà. Per citare un caso, ricordiamo il film famoso del regista serbo Emir Kusturica, Underground, del 1995. Un film che proprio all'inizio racconta il bombardamento di Belgrado nel 1941 e lo fa attraverso gli animali dello zoo, sorpresi, straniti, incapaci di orientarsi fra le macerie della città. Sono immagini potenti, che restituiscono con forza sia l'assurdità di queste strutture detentive, con elefanti, scimpanzé e leoni che vagano nella città, sia l'assurdità della guerra. To achieve inner peace, you have to look beyond the normal events in life. La speranza, ha inquinato la mia vita, sei il veleno che è in me, hai aperto le mie vene, mi hai costretto alle catene, calpestato la mia ombra, sei il veleno che è in me, sei il veleno che è in me. Vogliamo oggi parlarvi anche di un libro che ci riporta alla storia dell'animalismo, la quale è ricca, soprattutto nella sua fase nascente, quindi fra 8 e 900, di autori, attivisti e pensatori che avevano lo spessore del riformatore sociale. Pensiamo a Henry Salt, il fondatore della Società Vegetariana Britannica, che fu la culla, fra l'altro, della scelta vegetariana e dell'attivismo di un giovanissimo Gandhi, o allo stesso Lev Tolstoi, il grande scrittore russo, che della non violenza, del vegetarismo, del rifiuto della caccia, fu uno degli antesignani. In quella fase storica la questione animale affiorava all'interno di visioni politiche, potremmo dire utopie, che riguardavano l'intera società, anticipando in qualche modo l'antispecismo contemporaneo, che certo ha sensibilmente aggiornato e corroborato l'analisi e la visione di una società nuova da costruire oltre la sfittica prospettiva dell'antropocentrismo che vorrebbe la specie umana padrona del pianeta Terra. Uno dei personaggi che appartengono a questa vasta categoria di riformatori sociali aperti alla questione animale è senz'altro Edward Carpenter, intellettuale britannico vissuto fra 1844 e 1929, in realtà poco conosciuto da noi, ma molto noto in ambiente anglosassone. Carpenter fu definito il toro britannico in un accostamento al filosofo statunitense, famoso per libri epocali come Walden o La vita nei boschi e Disobbedienza civile, un accostamento che già dice molto sull'ispirazione di Carpenter. Omosessuale dichiarato, pioniere nelle lotte per i diritti che abbiamo imparato a denominare LGBT, sostenitore del suffragio universale, aperto quindi anche alle donne, Carpenter praticava il vegetarismo e cercò di mettere in pratica le sue convinzioni, ossia l'aspirazione a una vita più semplice. Per questo fu anche fondatore di una fattoria nella quale sperimentava gli stili di vita che immaginava e raccontava e scriveva nei suoi interventi, nelle sue conferenze. Carpenter era di ideali socialisti, fu fra i fondatori della famosa Fabian Society, protagonista a sua volta con sindacati e altre organizzazioni della fondazione del Labour Party britannico, e fu poi un prolifico scrittore, oltre che apprezzato conferenziere. Fu amico di personaggi come il poeta indiano Tagore, premio Nobel per la letteratura, del citato Henry Salt, del poeta statunitense Walt Whitman, e fu in contatto epistolare con alcuni dei maggiori intellettuali della sua epoca, fra i quali ci piace ricordare Jack London e Gandhi. Carpenter fu anche l'ispiratore del famoso romanzo Maurice, del suo amico scrittore Edward Morgan Foster, che alla sua lunga storia d'amore con il compagno dedicò appunto il romanzo, forse la prima importante opera contemporanea di narrativa a tema omosessuale. Tutto questo per dire che l'editore Piano B ha da poco pubblicato un libro, Una vita più semplice è il titolo, che raccoglie alcuni interventi risalenti a un arco di tempo che va dal 1884 al 1889. Sono testi, almeno alcuni, di sorprendente modernità, non fosse per il fatto che Carpenter già allora metteva in discussione la nozione di progresso, per la quale rivendicava la necessità di un contenuto sociale. Chiunque, scrive in uno dei suoi testi, senta dentro di sé che può esistere uno standard di vita migliore di quello dominato dalla frenesia del mercato, nonché un equilibrio più ragionevole degli stipendi e una condizione per la quale le cose non meritano di essere fatte soltanto se rendono bene, egli coltiva dentro di sé i semi di un nuovo ordine sociale. Nel testo del gennaio del 1886, compreso nella raccolta che dà il titolo al libro, Per una vita più semplice, Carpenter cita Thoreau e in un passaggio affronta il tema dell'alimentazione a base di carne, in un modo che alle nostre orecchie può risultare per certi aspetti superato, ma che contiene un nucleo di indubitabile verità e inoltre restituisce lo stile brillante, tipico di Edward Carpenter. Leggiamo questo passaggio. Una delle spese principali per la maggior parte delle famiglie moderne deriva dagli acquisti in macelleria. In Inghilterra, per esempio, le spese al riguardo ammontano in media a 10 sterline l'anno per famiglia, che è comunque niente in confronto a quanto viene speso in media dalla famiglia reale, ovvero 9.472 sterline annuali. Se i nostri reali adottassero una dieta più frugale, diciamo come quella del califfo Omar, il quale cavalcava da Medina a Gerusalemme con soltanto un sacchetto di datteri e uno di grano turco, rimarrebbero con buone probabilità altrettanto lieti e in salute, e in più chissà quanto risparmierebbe l'intera nazione. Il desiderio eccessivo di una dieta a base di carne è simile al desiderio di altri stimolanti. Certo, la carne non è considerata uno stimolante, ma basta poco per notare quanto il suo apporto sia della stessa natura. Essa infonde rapidamente un senso di benessere seguito da agitazione e depressione. E questa reazione, per quanto innocua nella misura minima, può comportare danni seri laddove la carne sia al centro della propria dieta. Probabilmente la grande brama del consumo di carne va di pari passo con le condizioni attuali della civiltà, la fretta e il superlavoro, o meglio, il lavoro febbrile della modernità, l'aria cattiva respirata per buona parte del giorno, dalle donne chiuse in casa o dagli uomini negli ambienti di lavoro, gli stimoli innaturali nelle relazioni sessuali come in tutto il resto, e soprattutto l'ipersensibilità delle nostre donne, le quali, avendo abbandonato la vita e il lavoro all'aria aperta, tramandano alla nostra specie un organismo sempre più debole e nervoso. Tutte queste cose producono una brama di stimolanti artificiali. L'uomo, che fatica a camminare, ricorre alle stampelle, ma le stampelle, a loro volta, fanno sì che gli arti si atrofizzino. Nell'insieme, e per un uso abituale, non riesco a immaginare cosa possa essere più nutriente e appagante di cereali, riso, grano e così via, latte, uova, formaggio, pane, burro e ogni tipo di frutta o verdura. E mi sembra che questi alimenti siano meglio della carne, anche in termini di conservazione e produzione. Basta un penny di farina d'avena per procurare a una persona un piatto abbondante di porridge, che accompagnato da un uovo, un po' di formaggio e della frutta, andrà a comporre un pasto completo di tutto rispetto. Per contro, tutte quelle maestose quanto terrificanti ricette contenute nei libri di cucina meriterebbero una lieve modifica alla formula che di norma le conclude: servire caldo, aspettare che si freddi e poi gettarlo nell'immondizia. Così Carpenter, in un testo curioso di oltre un secolo fa, che poneva il tema dell'alimentazione in un contesto sociale allargato e si proponeva a suo modo di intervenire per un cambiamento radicale che avesse effetti sull'insieme della collettività. Sono cambiati i tempi, le prospettive non sono le stesse di allora, ma c'è un filo che lega queste due prospettive ed è proprio la storia dell'animalismo, dell'antispecismo, dei progetti in apparenza utopici, ma ormai necessari, di radicale cambiamento delle strutture della nostra vita in comune. Vi ricordiamo il libro Edward Carpenter per una vita più semplice, a cura di Mauro Maraschi, editore Piano B, in vendita per 16 euro. Well, this land is your land, this land is my land, from California to the New York Island, the Redwood Forest, the Gulf Stream water. Well, this land was made well. Now the sun came shining. Per questa settimana è tutto, si chiude qui la puntata numero 639 di Restiamo Animali. Vi saluta l'intera redazione composta da Camilla Lattanzi, Francesca De Matteis, Roberta Marino, Valentina Baronti, Valentina Reggioli, Zenone Sovilla, Gabriele Palloni, Gianluca Masala, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.